bravissima. Eccomi, sono Ziba, il capo più simpatico. Easy ti aiuterà. E il sole riscalderà, riscalderà per sempre quest'isola, quest'isola. Insieme vogliamo il buon minestrano, perciò produciamo luce in quantità. Senti questo ritmo qua, fa ballare l'isola. Sotto il sole, la pioggia, la neve, guarda qui che novità, il clima tutto può cambiare, le stagioni e il clima dell'isola che nessuno mai scoprirà. Piccolo ma energico, ciao ciao son Pato, severo ma simpatico, Musonio sono qua. C'è sempre una nuvola, una nuvola, che freddina e generosa, sai, Scilla è come qua. La neve che coprirà, che coprirà dall'alto quest'isola, quest'isola. Più è freddo, più è buono questo minestrano, per cui produciamo neve in quantità.